Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ieri, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, una giornata che possiamo dire dominata dallo psicodramma da vari punti di vista della politica italiana. Oggi purtroppo invece una giornata segnata da un dramma vero, enorme, quello dell'ennesimo naufragio di migranti sempre nel mare di Sicilia. Si temono oltre 300 morti e di questo principalmente parleremo, ma gli argomenti, come sempre sapete, sono tanti qui a Effetto Notte, perché sono quelli che hanno costellato il giorno che si sta chiudendo. È un punto, un momento per fare il riepilogo della giornata, poi naturalmente con anche diversi ospiti e i loro punti di vista e gli approfondimenti. Quindi cominciamo, siamo, lo sapete, sempre qui la sera dalle 21 alle 22, Roberta Giordano con voi sino a, da lunedì al venerdì. Iniziamo dai titoli. Notizia di poco fa, per quanto riguarda gli Stati Uniti, spari fuori dal Congresso a Washington, diversi feriti e già un uomo arrestato. E poi la seconda enorme tragedia del mare in una settimana. Centinaia di migranti morti nel naufragio di un barcone a Lampedusa, si sono salvati in 151, domani lutto nazionale. E scoppia, naturalmente legata a questa tragedia dell'immigrazione, la polemica politica con la Lega, che subito punta il dito e dice colpa di Boldrini e di Kyenge. La politica in questa giornata è sospesa ed è sospesa al momento la nascita di un nuovo gruppo alternativo al PDL. Il governo Letta intanto va avanti sulla strada delle riforme economiche. E poi Telecom Italia. Bernabé si è dimesso. Il titolo chiude bene in borsa. A Minucci la conduzione del CDA, del Consiglio di Amministrazione. I lavoratori intanto sono pronti a entrare in sciopero e dicono no ai licenziamenti o allo spezzatino. E partiamo quindi, abbiamo detto, da poi approfondiremo anche quello che sta succedendo negli Stati Uniti, ma partiamo dall'immane tragedia che dicevamo si è consumata ancora una volta nel mare di Sicilia, a pochi chilometri dall'isola dei Conigli, che è famosissima per la sua bellezza, per la bellezza del suo mare. Si parla di centinaia di morti, forse 300. La sindaca Nicolini dice: non sappiamo più dove mettere i corpi. Questo dà veramente la misura della sciagura. Il Papa, che dice è una vergogna, simili tragedie non si ripetano. E c'è per noi lì proprio a Lampedusa, inviato del Sole 24 Ore, Nino Amadore. Nino, quindi la situazione appunto è di questa drammaticità. Intanto che cosa si sta facendo a Lampedusa in questo momento? Cosa succede? Lampedusa in questo momento ci sono le squadre, ci sono gli uomini della Guardia Costiera, di Guardia Finanza, insomma, sul luogo del in cui è avvenuto, diciamo, la strage, possiamo dire così, che stanno con i sommozzatori al lavoro, che stanno recuperando altri corpi. Ancora qualche, diciamo, mezz'ora fa sono stati recuperati ancora altri corpi di migranti che sono morti, perché i migranti alcuni sono rimasti schiacciati da questa imbarcazione che è affondata. Si parla soprattutto di donne e bambini, è vero questo? Sì, perché quando loro hanno acceso questo fuoco sul ponte della barca per attirare l'attenzione, per essere soccorsi, e il fuoco si è sviluppato, chiaramente, perso di controllo. Si è sviluppato velocemente, e i più giovani, i più forti si sono tuffati e sono riusciti a sopravvivere, ma anche, diciamo, in condizioni difficili. Sono stati in acqua, un sopravvissuto ha raccontato che sono stati in acqua per almeno 3 ore, mentre donne e bambini non ce l'hanno fatta, sono rimasti sulla barca e sono andati a fondo, purtroppo. Infatti oggi sono 4 i bambini che sono stati recuperati dai soccorritori. Questa è la situazione ancora più triste, diciamo, nella tragedia, perché poi alla fine, insomma, i più deboli sono rimasti in acqua. Nino, ma comunque morti. Purtroppo tanti corpi sono ancora da recuperare. Tanti corpi, sì, perché sulla barca, secondo quello che è stato raccontato, c'erano almeno 500 persone, quindi ne mancano all'appello almeno 200, circa 200, perché un centinaio, mi pare, sono stati recuperati, e quindi 100, 110 sono stati recuperati, e quindi ne mancano ancora quasi 200, insomma. Hai avuto modo di sentire la sindaca Nicolini? Ma la sindaca no, io non non sono riuscita a sentirla, però ha parlato oggi diverse volte, mi ha colpito molto quello che lei ha scritto in maniera lapidaria al Presidente del Consiglio: vieni con me a raccogliere morti in mare, più o meno era la frase. Insomma, invece a volte perché, delle parole di circostanza, no? Che ci sono. Perché la situazione che è stata descritta, raccontata da chi si è trovato subito sul posto, che intorno alle 7:20 è stato dato il primo allarme, era di l'acqua il mare ricoperto di corpi, quindi insomma una situazione da far rabbrividire, tristissima, bruttissima, indescrivibile. Nino, io ti ringrazio intanto, Nino Amadore, lì da Lampedusa, so che poi dovrai anche scrivere dei pezzi per il Sole 24 Ore, ti lasciamo allora lavorare, grazie. Grazie a te. E mentre si contano appunto i morti che abbiamo detto, abbiamo sentito dall'inviato del Sole 24 Ore, sono ancora molti, inevitabilmente monta la polemica politica. La Lega accusa la Presidente della Camera Laura Boldrini e la Ministra dell'Integrazione Kyenge. Il naufragio di Lampedusa è una tragedia sconvolgente, una strage degli innocenti. Sono parole condivise da tutto il mondo politico, quelle del presidente Napolitano. Secondo il capo dello Stato, per evitare che fatti del genere si ripetano, deve intervenire l'Europa e sono indispensabili presidi sulle coste dalle quali partono i migranti. Domani sarà lutto nazionale per ricordare le vittime, lo ha deciso il premier Letta, che oggi ha chiamato il sindaco di Lampedusa per ringraziare tutti gli abitanti dell'isola per quanto stanno facendo in queste ore. A Lampedusa nel pomeriggio è arrivato anche il ministro dell'Interno Alfano. Vogliamo che quella frontiera lì, quella frontiera di Lampedusa, venga considerata frontiera e confine dell'Europa, non frontiera e confine italiano. O l'Europa diventa protagonista o non si può dire che ci sia un'Europa solidale. Fuori dal coro, la Lega Nord attribuisce la responsabilità morale della strage alla coppia Kyenge Boldrini per le loro politiche buoniste sull'immigrazione, un'offesa alle vittime, l'amara replica del ministro dell'integrazione. È fuori da ogni logica che in un momento come questo qualcuno si metta a speculare sulla tragedia delle persone. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sentiamo invece come l'Europa, visto che veniva chiamata in causa D'Alfano, non solo dal vicepresidente del Consiglio, come reagisce a questa strage di immigrati. È una catastrofe, la ripartizione delle responsabilità in Europa è necessaria, non si può abbandonare a se stessi uno o due paesi, è un problema europeo, chiedo a tutti gli stati membri di condividere le responsabilità di questo dramma. Il presidente dell'Europarlamento, Martin Schulz, non nasconde la disunione europea di fronte all'ennesima tragedia dell'immigrazione, concetto condiviso dalla commissaria degli affari interni Cecilia Malmström, che parla della necessità di uno sforzo a livello comunitario per affrontare e risolvere il problema dei flussi migratori. Bruxelles prende atto dell'ovvio. Attualmente c'è una politica migratoria frammentata nelle mani degli stati membri. La Malmström, attualmente a New York, ha annunciato una prossima visita a Lampedusa, anche se non ha precisato quando avverrà. E se il commissario europeo alle politiche regionali Johannes Hahn ipotizza l'uso di fondi strutturali per limitare i flussi migratori, per una strana coincidenza un rapporto del Consiglio d'Europa in uscita oggi boccia la strategia migratoria dell'Italia. Sbagliate e controproducenti vengono definite le politiche prese dal nostro paese per gestire i flussi. Un esempio su tutti, i sistemi di intercettazione e dissuasione inadeguati che hanno fatto della penisola una vera e propria calamita per i migranti. Dall'ONU il commento del segretario generale Ban Ki-moon: la morte dei migranti africani a Lampedusa deve spingere all'azione. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sentiamo qual è la proposta, fra le varie proposte, perché chiaramente oltre alle critiche bisogna anche avanzare qualche suggerimento, la proposta di un corridoio umanitario da parte di Mario Marazziti, di Scelta Civica, al microfono di Vincenzo Miglietta. Da un lato il pattugliamento del Mediterraneo deve significare creare dei corridoi umanitari nel Mediterraneo pattugliati contro i trafficanti umani, e dall'altra per creare sicurezza per chi comunque fugge da situazioni invivibili, di rischio, di paura, e poi appunto contemporaneamente creare dei punti di accoglienza veri, e questi punti di accoglienza io credo debbano essere punti di accoglienza europei, anche se sul territorio italiano. Poi approfondiremo ulteriormente questo argomento con degli ospiti più tardi, ma intanto questa enorme sciagura ha fermato un po' tutto, la politica in principal modo, e il governo ha deciso per domani di proclamare una giornata nazionale di lutto, di far osservare nelle scuole un minuto di silenzio. Per quanto riguarda, diciamo, i suoi movimenti politici, quindi tutto fermo, e pur tuttavia chiaramente si discute ancora sul futuro del centrodestra, no? Dopo il voto di fiducia al governo Letta di ieri, anche se vogliamo dirlo con termini magari un po' forti e abusati, dopo lo tsunami che ha colpito il PDL. Oggi si sono incontrati Silvio Berlusconi e Angelino Alfano. Poco fa sembrava che una delegazione di cosiddetti falchi stesse andando, mi sembra, da Berlusconi, poi guardo meglio, per parlare del caso Alfano. Intanto sentiamo cosa ha detto oggi Berlusconi. Io vedo ancora un partito assolutamente unito, con qualche contrasto interno. I contrasti interni, per fortuna, una volta ci dicevano che eravamo un partito di plastica perché decideva solo Berlusconi, adesso abbiamo personalità che di fronte a certi problemi la vedono in una maniera differente, ma questo è successo. E invece sentiamo cosa ha detto sempre Silvio Berlusconi sulla giunta per le elezioni e le immunità, che proprio domani, 4 ottobre, dovrebbe votare sulla sua decadenza. No, non ci vado, perché abbiamo mandato una memoria che dice come non possiamo considerare questi giudici dei giudici imparziali ed obiettivi, perché hanno espresso il loro pensiero in maniera diciamo pubblica, e questo in un organo che è con una funzione giurisdizionale non si può fare. È una sentenza politica fondata sul nulla. Intanto l'esecutivo, il governo, va avanti sulla strada delle riforme economiche. Taglio del cuneo fiscale, nuovo patto di stabilità interno per favorire gli investimenti, service tax sulla casa. Riparte da questi punti il lavoro del governo dopo la fase di stallo dovuta allo strappo non riuscito di Berlusconi. Il tempo stringe, l'obiettivo è quello di mettere a punto i vari interventi per il 15 di ottobre, quando l'esecutivo presenterà la legge di stabilità, legge che orienterà la programmazione economica per i prossimi 3 anni. Quanto alle tasse sul lavoro, già lunedì ci sarà un primo incontro governo-parti sociali, ma Palazzo Chigi ha anche altre scadenze a cui mettere mano, dal rientro del deficit ai soldi per la cassa integrazione, dal nodo delle rate IMU al rifinanziamento delle missioni internazionali e della social card. Sul fronte delle coperture si punterebbe alle dismissioni e soprattutto al taglio della spesa pubblica. Bene la fiducia al governo Letta, dice intanto Moody's, ma l'Italia, secondo l'agenzia di rating, non centrerà l'obiettivo europeo di un deficit al 3% quest'anno. A breve arriveranno le misure per rientrare nei parametri, replica però il vice ministro all'economia Fassina. Vincenzo Miglietta, Radio 24. Il Sole 24 Ore, Roma. E c'è anche sul tavolo politico, industriale, economico, finanziario, come vogliamo chiamare, anche il caso Telecom. Il presidente di Telecom Italia, Franco Bernabei, oggi si è dimesso. Dice: ho deciso di fare un passo indietro perché in questa fase critica per il futuro di Telecom, una spaccatura in seno al consiglio di amministrazione avrebbe rischiato di provocare una paralisi per l'azienda. Ma c'è in diretta Livia Zancaner di Radio Cor. Ciao Livia. Ci dici un po' quali sono gli ultimi sviluppi, e anche se puoi ripilogare molto sinteticamente per le ascoltatrici e gli ascoltatori un po' quali sono le questioni in campo. Sì, allora, il presidente Franco Bernabei, nel corso di un CDA oggi durato oltre 4 ore, ha rassegnato le dimissioni, appunto per evitare una spaccatura all'interno del consiglio di amministrazione. Notizia di pochi minuti fa che le deleghe operative sono state affidate all'attuale amministratore delegato Marco Patuano in via provvisoria, mentre il vicepresidente Aldo Minucci avrà la gestione del consiglio, tutto in attesa di trovare il successore di Bernabei, carica per cui sarebbe in pole position, secondo le indiscrezioni uscite in questi giorni, il numero uno di Poste Italiane e Massimo Sarmi. Proprio in tal senso Telecom ha avviato oggi il processo volto all'individuazione del nuovo presidente. Tutto questo, Olivia, perché la Spagna, insomma, Telefonica, società telefonica spagnola, vuole acquisire una maggioranza di azioni in Telecom e potrebbe diventare spagnola, si era detto giorni fa, entro il 2014, se non sbaglio, più in là? Sì, sostanzialmente 10 giorni fa è stato annunciato l'intesa che ha definito praticamente il nuovo assetto azionario di Telco, che è la società che detiene il 22,4% di Telecom. Secondo gli accordi, Telefonica al momento è salita dal 46 al 66% di Telco, i soci italiani Intesa San Paolo, Generali e Mediobanca hanno ridotto le loro quote. Sempre in base all'intesa annunciata quindi la settimana scorsa, Telefonica potrà salire fino al 70% ed eventualmente da gennaio 2014 salire al 100%. Ricordiamo però che i diritti di voto di Telefonica al momento sono congelati alla quota che aveva precedentemente, quindi al 46%. Staremo a vedere. Grazie Livia Zancaner. Grazie a voi. Ciao Olivia. E adesso spostiamoci invece all'estero. Dicevamo, questa notizia che è arrivata poco fa, che riguarda gli Stati Uniti, di spari a Capitol Hill, che è la sede del Congresso americano. C'è Marco Valsania in diretta, corrispondente dagli Stati Uniti per il Sole 24 Ore. Marco, da alcune agenzie che intanto guardavo con la coda dell'occhio, mi sembra che sia un po' rientrato l'allarme. Sì, l'allarme, lo stato d'assedio al Congresso americano è stato cancellato dalle autorità, dalla polizia. Quindi la crisi è rientrata, anche se non è ancora chiara la dinamica. Pare che, secondo appunto le prime ricostruzioni, il sospetto sia stato ucciso dopo un inseguimento da parte della polizia, forse è una donna. Quel che è certo è che un'auto sembra abbia cercato di forzare forse l'ingresso, i cancelli della Casa Bianca. Comunque da lì è partito l'inseguimento delle autorità, della polizia, dell'FBI. L'auto si è spostata verso il Congresso, verso Capitol Hill, poco distante dalla Casa Bianca, lungo quindi Pennsylvania Avenue. A questo punto l'auto sarebbe stata comunque bloccata e la persona a bordo dell'auto, qui a questo punto non è chiaro se ha cercato di scappare, a questo punto sia stata raggiunta dai colpi della polizia. In tutto sembra che siano stati sparati tra i 4, 5, 6 colpi di arma da fuoco. Anche un agente delle forze dell'ordine sarebbe rimasto ferito e non ci sono al momento ancora spiegazioni da parte dell'autorità sulle ragioni dell'incidente, dell'inseguimento e della sparatoria. Grazie Marco Valsania. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Proseguiamo con l'effetto notte, il momento di ricordarvi i titoli dei fatti principali di oggi. Enorme tragedia del mare, seconda in questa settimana, forse la più grande degli ultimi tempi. Centinaia di migranti morti nel naufragio di un barcone a Lampedusa, si sono salvati in 151, tre morti soprattutto donne e bambini, domani c'è il lutto nazionale. Intanto scoppia, come si può immaginare, la polemica politica con la Lega in primo piano che subito punta il dito dicendo la colpa è della presidente Boldrini e della ministra Kyenge. La politica è sospesa al momento la nascita di un nuovo gruppo alternativo al PDL, ma intanto il governo Letta va avanti sulla strada delle riforme economiche. Telecom, Bernabé si è dimesso, il titolo chiude comunque bene in borsa, a Minucci la conduzione del consiglio di amministrazione, i lavoratori intanto sono pronti a entrare in sciopero, temono, dicono lo spezzatino, dicono no ai licenziamenti. Ebbene, a questo punto vi presento il primo ospite, che è Mario Fini, Massimo Fini, Massimo, Massimo, ho accorciato brevemente il tuo nome così ci conosciamo da tanto tempo, quindi non c'è alcun dubbio che so che sei Massimo. Ciao. Ciao Massimo, scrittore, giornalista del Fatto Quotidiano, al quale vorrei sottoporre una serie di temi, anche se abbiamo detto la politica al momento è sospesa. Però in realtà, poi adesso sto guardando le agenzie, insomma, continuano i mal di pancia, le tensioni, il dramma anche proprio, possiamo chiamare così, interno al PDL, anche se Berlusconi, l'abbiamo sentito prima, fa quello, insomma, tranquillo, dice no, ma in realtà, insomma, si è sempre criticato questo partito come un partito di plastica, questo ha dimostrato che ci possono essere delle voci contrarie, però questo non significa che ci debba essere per forza una spaccatura, no? Che ti sembra? Che molti hanno parlato ieri ormai di un uomo morto politicamente, di un uomo finito. No, tutt'altro. Anch'io ritengo che tutte le volte che si è detto che Berlusconi era finito, era morto, si arriva. Io penso che sia una specie di araba fenice, però Berlusconi. Non solo per questa, per i precedenti. Ma Berlusconi è stato un gigante, nel senso che con un colpo solo, con quella sua dichiarazioni di fiducia al governo, li ha messi nel sacco tutti. Perché il PD è forse anche il Movimento 5 Stelle. Ha messo in attacco innanzitutto il governo Letta, perché questo poteva governare con una maggioranza limitata ma coesa, e invece adesso dovrà averci ancora fra le scatole Berlusconi, con tutti i possibili ricatti che costui può sempre fare. Ha messo nel sacco il PD, perché il PD dovrà comunque governare con un centrodestra che è sempre comunque in mano a Silvio Berlusconi, e quindi perderà consensi quando sarà il momento da parte del suo elettorato, che l'uomo di Arcore non lo può vedere. Ha messo nel sacco Napolitano, perché volevi un atto di responsabilità, ebbene eccolo. E quindi, nonostante abbia tenuto in scacco il paese, massacrando tutte le istituzioni, insomma sapendo tutto eccetera, passerà come padre salvatore della patria, non fra la gente, non fra i giornali di regime di destra e di sinistra eccetera, che hanno detto che è una resa, perché si è parlato di sconfitta, parlato di una retromarcia anche non, imbarazzante, non, fingendo di non sì, ma Berlusconi è abituato, ha sempre fatto queste cose qui, ci scivolano addosso, lui non le sente come delle cose mortificanti, ma neanche il suo elettorato le sente come tali. Quindi Berlusconi ha un grande vantaggio sui suoi avversari politici, i laici cattolici, quali in qualche modo devono tenere conto, anche se sono molto anacquati, di una storia, di un passato, di una tradizione, di un retaggio, eccetera. Berlusconi non deve tenere conto di niente, lui pensa solo e esclusivamente a se stesso, e è spinto solo dai suoi, come si può dire, dal suo istinto, dal suo paranoide delirio di onnipotenza, e quindi ha le mani completamente libere, e quindi questo gli dà una spregiudicatezza che altri non possono permettersi fino a questo punto, e anche una velocità di decisione che gli altri non hanno. Senti, tra le altre cose, Massimo Fini, mi piace dire queste cose, no, voglio dire, voglio pensi. Aggiungere che questo è stato definito dal Tribunale di Milano delinquente naturale, abituale, che, naturale, che è più che un delinquente abituale, però... Senti, ma devo dire che però tu hai parlato anche di sua grandezza, hai detto che ha messo nel sacco il PD, Napolitano, il governo stesso, eccetera. Bisogna tra l'altro rilevare, molti l'hanno anche notato, insomma, questa cosa era di pubblica conoscenza, il labiale di Letta, che quando l'ha visto spuntare Berlusconi ieri in Parlamento, mentre Letta chiedeva la fiducia, col suo discorso, ha detto grande, grande, quindi un po' gli ha riconosciuto l'onore delle armi, ma anche gli stessi avversari, quelli che pensano che prima o poi, insomma, coli a picco, e comunque ha detto grande Letta, che si è quasi... Ma secondo te, scusa se ti interrompo, secondo te ha detto grande perché dice mi salva il governo, a parte che la maggioranza a quel punto c'era lo stesso, o sempre per ammirazione, per dire questo non si arrende mai, riesce sempre a tirare fuori il coniglio dal cilindro? Non lo so, Letta non si è reso conto che Berlusconi stava tendendo con quella secca dichiarazione di voto, è una grande trappola, il buon Letta, non se ne è reso conto, forse se ne sarà reso conto dopo, ripeto, perché prima poteva governare con una maggioranza coesa limitata, adesso invece deve, con una maggioranza più larga, ma avendo sempre fra le palle Berlusconi. E il buon Alfano invece? Il buon chi? Alfano. Sai che adesso Alessandra Mussolini lo chiama Alfini, nel senso dice Alfini non vincerà, quindi mette insieme l'evocazione di Fini, traditore, che è stato espulso, ha fatto la fine che ha fatto, e in più anche lo rimpicciolisce, no? Quando si mette Ini, significa Alfini, sì. Quindi con una parola, insomma, lo distrugge quasi, almeno simbolicamente, poi Alfano non si sentirà distrutto da Alessandra Mussolini, però... Beh, insomma, certo, voglio dire, non è che l'Alessandra Mussolini sia una voce molto autorevole, cognome a parte, no, magari fosse suo nonno, ma è lei. Io credo che... Se ci ascolta ci può anche chiamare, Alessandra Mussolini, prego, sì. Massimo. Sì. Io credo che Berlusconi tenterà di riacquisire con tutti i mezzi che dispone di questi transfughi dal partito, che già hanno fatto una mezza marcia indietro, infatti, perché dovevano secondo te scindersi, ma non si sono scissi, e lui ha i mezzi, la spregiudicatezza, il coso per ricomprarseli tutti, insomma, o uno a uno, oppure per consumare vendette con la spietatezza che gli è consona, consumare le proprie vendette. Tremate, quindi, insomma, ai dissidenti, agli scissionisti. Senti, invece, in tutto questo, sì, Renzi che parte fa? Perché qualche osservatore diceva, in questo modo, salvandosi il governo e Renzi mostrando il suo pieno sostegno a Letta, si salvano entrambi, perché Letta va avanti col suo governo e lui pensa di andare avanti fino al 2015, poi si vedrà. Renzi nel frattempo evita che il congresso sia spazzato via, il prossimo congresso dal PD, da un eventuale voto. Per qualcun altro, al contrario, invece Renzi perde un po' il treno in questo modo per diventare... Guarda, ti rivolgo alla persona sbagliata, perché io in linea di massima, a parte casi clamorosi come questo, ma in fondo sono cose, diciamo, istituzionali, le dichiarazioni di Berlusconi, non entro nella vita interna dei partiti. Di Renzi ho un... Sei molto riservato, insomma. No, non entro, perché non mi interessano i partiti, penso come Grillo, che dovrebbero essere spazzati via, perché sono quelli che hanno distrutto la casa, non possono essere legittimati. No, so delle tue simpatie grilline, sono quanto mai legittime. No, simpatie io non voto, per cui sai, no, però, insomma, la mia religione non me lo consente. Vabbè, ma di Renzi avrai un'idea, scusa Massimo. Sì, ho un'idea pessima, nel senso che è un piacione, un grande paraculo, non è l'unico. Anche Renzi ci può chiamare se sentisse paraculo. Naturalmente ha un linguaggio che è molto, a parte che è toscano, e ha questa verve che certo altri non hanno, e tutto quanto, ma non credo che sia diverso dagli altri. Ma poi non è una questione di persone, ripeto, è una questione di sistema. E questo sistema non ha funzionato e non funziona, e questo ha molto a che vedere con la democrazia. Direi che l'esperienza berlusconiana ha dimostrato che la democrazia in realtà non esiste e può essere piegata in ogni momento. È un sistema, come si può dire, proteiforme, si può trasformare in qualsiasi cosa, la Costituzione non conta niente, noi abbiamo i soldati in Afghanistan, ma c'è un articolo 11 che vieta la guerra, l'Italia, eccetera, eccetera. Quindi è la democrazia, che non, diceva Churchill, con l'ironia di un uomo molto intelligente, che la democrazia è il peggiore dei sistemi a decisione di tutti gli altri. Non è vero, la democrazia, quando si trasforma nella sua parodia, è un sistema pessimo. Massimo, io non so se tu vuoi rimanere dopo questa pausa ancora qualche istante o ci lasciamo così con queste dichiarazioni veramente lapidarie, che dici? No, io resto volentieri. Bene, resta volentieri. Bene, allora abbiamo questa pausa di pubblicità, tra poco torniamo con i titoli, ci sarà ancora Massimo Fini, poi gli altri ospiti e altri approfondimenti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberta Giordano con voi sino alle 22 per riepilogare insieme la giornata, ma anche per sentire il punto di vista degli ospiti e proseguire con i vari approfondimenti. Ma prima di tutto vi ricordo quali sono i fatti principali di oggi. Attualmente, iniziando dall'enorme tragedia del mare, la seconda questa settimana, questa è stata davvero enorme, si parla di centinaia di migranti morti nel naufragio di un barcone a Lampedusa, se ne sono salvati 151, si teme che possano essere morti 300, domani lutto nazionale. E scoppia, come si può immaginare, la polemica politica, lo abbiamo detto, in particolare la Lega che accusa la ministra Boldrini, la presidente della Camera Boldrini e la ministra Kyenge. Intanto la politica si è fermata di fronte a questa tragedia, è sospesa al momento la nascita di un nuovo gruppo alternativo al PDL, il governo Letta intanto cerca di andare avanti sulla strada delle riforme economiche. E poi Telecom, si è dimesso il presidente Bernabé, il titolo ha chiuso bene in borsa e i lavoratori intanto sono sul piede di guerra, pronti a entrare in sciopero, dicono no ai licenziamenti e allo spezzatino. Siamo ancora con Massimo Fini, scrittore e giornalista del Fatto Quotidiano. Massimo, col suo pensiero che vi sintetizzo così brevemente, parlando di Berlusconi, ha detto che in realtà ha messo tutti nel sacco, da Letta, Napolitano, il PD, il governo, ha detto che Renzi è un paraculo e che la democrazia in realtà non esiste. No, ho sintetizzato il tuo pensiero, Massimo Fini, questa sera. Brava, sono stata brava, grazie. E poi invece io vorrei chiederti, ma i moderati, cioè ogni volta che ci sono questi sommovimenti, ritornano in auge i moderati. Mi fai una traduzione di questo termine? Chi sono i moderati secondo te? Ma come disse il buon Mino Martinazzoli, il moderato non è un luogo del Parlamento, è un modo di essere, no? Sì. Ora, Berlusconi e i suoi sono passati, vengono chiamati i moderati. Se c'è uno che non è moderato, Berlusconi e la sua genga, no? Io credo che il linguaggio politico dovrebbe essere cambiato, come quegli altri non sono affatto progressisti, sono loro i sindacati i veri conservatori. Berlusconi per esempio è un innovatore. Quindi lui è il vero progressista, secondo te? È un costruttore, come tutti i costruttori, distrugge tutto ciò che c'è prima. Purtroppo tutto ciò che crea è peggio di quello che c'era prima. E questo peraltro non è solo colpa sua, è il caratè della modernità. Massimo, prima di lasciarti, siccome poi pronto in collegamento il prossimo ospite col quale parleremo della sciagura, è Mario Borghezio, volevi parlargli? No. Ti risenti. Dimmi solo su questa ennesima tragedia. Tu avrai avuto una tua riflessione oggi, no? Penso che noi siamo estremamente ipocriti sulle migrazioni, perché in generale, pensiamo per esempio, non è il caso questa volta, ma in generale le migrazioni dall'Africa nera, l'Africa subsahariana, sono originate dall'intrusione del modello economico occidentale nelle economie di sussistenza di quei popoli, di quei paesi, per cui che è distrutta questa economia di sussistenza, questa gente è alla fame e quindi cerca, vive con materiali di risulta alla periferia dell'impero e cerca allora una vita migliore. Vuol dire, le navi esistevano anche un secolo fa, non si era mai visto un nero del Centrafrica cercare di venire verso di noi. Per quello che riguarda la tragedia di oggi, per esempio, prendiamo, molti sono somali, no? Sì, eritrei e somali. Prendiamo i somali. Alcuni anni fa in Somalia le corti islamiche hanno sconfitto i signori della guerra che vi spadroneggiavano il proprio territorio e hanno riportato la legge e l'ordine, seppure una dura legge, perché la Sharia. Bene, questo non piaceva agli americani, che hanno spinto l'Etiopia a invadere la Somalia, hanno creato un governo fantoccio esattamente come il Karzai afghano, e questo ha provocato la guerra civile, naturalmente, che poi si riversa sulla gente normale che fugge da quel posto, ma se no la Somalia sotto le corti somale era un paese abbastanza ordinato e tranquillo. Quelle islamiche. Va bene, Massimo Fini, ti ringrazio, spero di averti presto qui di nuovo effetto notte. Ciao, vediamo. Massimo. Vediamo i tuoi ascoltatori, ciao. Ciao Massimo. E passiamo al prossimo ospite allora. Mario Borghezio, già annunciato, quindi. Buonasera, eurodeputato della Lega Nord. Buonasera e buona Padania a tutti. Grazie. Lei ci teneva, Mario Borghezio, per caso a parlare con Massimo Fini? So che però aveva fretta Massimo, quindi parliamo tra noi, insomma. No, indubbiamente le cose che ha detto sono condivisibili sull'immigrazione. Io la parte precedente purtroppo non sono riuscito a sentirla. No, ma è solo su questo, per quanto riguarda l'immigrazione. Parlavamo prima di politica nazionale. Perlomeno è uno di quei pochi intellettuali che si approcciano a questi temi senza ipocrisia. Allora, è quello che invece caratterizza 99 centesimi della politica italiana ed europea sull'immigrazione, una vergognosa ipocrisia. Questo forse anche Papa Francesco dovrebbe dirlo, perché ha ragione a dire che è una vergogna lo spettacolo dei poveri morti sulla spiaggia di Lampedusa, ma è ancora un enorme vergogna, l'ipocrisia di quelli che non hanno fatto niente per impedirlo. Ma secondo lei, Mario Borghezio, a parte poi mi spiegherà esattamente in cosa consiste l'ipocrisia, che certamente ce ne sarà molta, ma che cosa bisognava fare per impedire questa tragedia? Come tante altre? Perché sì. Io la settimana scorsa sì? ho affrontato, lei sa che periodicamente il ministro dei rapporti con l'Europa, il ministro Moavero, viene a trovarci in Europa, noi parlamentari italiani e padani. Io sono stato l'unico a sollevare il problema di Lampedusa, perché io tutti i santi giorni, si fa per dire, insomma, comunque con una frequenza notevole, chi riceve i miei comunicati lo sa, martello la Commissione europea per chiedere che si facciano delle cose. E gli ho chiesto come mai il governo italiano non parlasse mai di questi problemi per prevenire queste disgrazie, queste tragedie, questi fenomeni e naturalmente per tutelare il nostro paese. E le cose che io ho chiesto in quell'occasione erano tre. Primo, perché non chiede, il governo italiano non ha mai chiesto all'Unione Europea, battendo i pugni sul tavolo naturalmente, facendosi sentire, perché venisse adottato una norma che vincolasse tutti gli altri 27 paesi oltre noi, membri dell'Unione Europea, a suddividersi gli oneri dell'immigrazione e degli sbarchi. E questo non avviene, non c'è una norma che vincola. Cioè, se ne arrivano 100 da distribuire equamente tra i paesi che fanno parte dell'Unione Europea. Certamente. Seconda cosa, come mai non facesse sentire la sua voce il governo italiano per finanziare adeguatamente le due agenzie, Europol ed Eurojust, che con vari compiti possono e devono, e qualcosa fanno, azionare iniziative per prevenire e stroncare il traffico immondo dei delinquenti che organizzano le carrette della morte, una volta si chiamavano carrette del mare. Oggi, quindi in questo caso per seguire gli scafisti e gli organizzatori di questo traffico. Abbiamo due agenzie che sono fatte apposta, ma hanno mezzi risibili. Lei pensi che non hanno nemmeno un ufficio a Lampedusa, ma l'Europa non ha un ufficio a Lampedusa. Quando ci fu un'emergenza tempo fa, un giornalista, un inviato, non so se del Corriere, diciamo, di un importante quotidiano italiano, descrisse l'aspetto un po' ridicolo e penoso di questi due sparuti funzionari dell'Unione Europea che giravano per bar, perché non avevano un posto dove scrivere il loro rapporto. Noi abbiamo proposto, noi Lega, noi i razzisti, fra virgolette, della Lega, abbiamo proposto un osservatorio e questa proposta è stata raccolta da una ONG che l'ha ribaltata sul ineffabile commissario europeo all'immigrazione, Cecilia Malmström. Ma questa è la seconda cosa, l'osservatorio, un ufficio. E la terza cosa è naturalmente un reato europeo con sanzioni molto pesanti da attuarsi con energia nei confronti degli scafisti e di chi organizza questi dati. Devo dire, non è reato europeo. Allora che ci sta a fare la Procura europea? Dovrebbe esserci una specie di FBI europeo per affrontare queste cose e soprattutto una politica estera europea, ma la signora Ashton, il ministro degli esteri europeo, sembra un fantasma. Lei l'ha mai sentito parlare di accordi Europa Libia, Europa Egitto, Europa Tunisia per costringere questi paesi a cui vanno No, ma è chiaro, Borghezio. Però le voglio chiedere. Europeo. Sì, le voglio chiedere. Mi perché, sembra perché impediscano queste attività, perché regolino l'immigrazione. Sì, dalle cose che sta dicendo Mario Borghezio, mi sembra, posso dirlo in termini più moderato, visto che abbiamo parlato prima di moderati, più ragionevole rispetto ad altre volte. Quindi lei non intende ma noi né sparare né ragionevoli. No. Noi, scusi l'orgoglio, noi siamo esperti perché ci occupiamo ormai da tempo di questi problemi. Io sono lì in Europa dal 2001 e mi sono occupato nella commissione di merito principalmente di questo tema. Le proposte le facciamo, le insistenze le facciamo, non è colpa mia se i giornali mi pubblicano solo ma secondo lei, se alzo la voce e uso un termine proprio. Senta, Gianluca Pini, le interrogazioni le ha fatte. E anche questa relazione del colloquio con Moavero, che naturalmente non ha preso nessun impegno serio, le mando ai giornali, non è colpa mia se non le pubblicano. Ma mi dico una cosa, Mario Borghezio, quello che ha detto oggi Gianluca Pini della Lega Nord, no? Che ha detto la colpa è della Presidente della Camera Boldrini e della Ministra Kyenge, delle loro politiche buoniste, lei è d'accordo? Cioè puntare il dito contro di loro, che tra l'altro c'è da anni in Italia la legge Bossi-Fini che porta il nome del suo ex leader Bossi, e mi sembra che non abbia funzionato questa legge. Evidentemente è un problema troppo grande. Degli sbarchi, la Bossi Fini, lei capisce, può incidere molto relativamente, perché il problema è non farli partire. Quando arrivano qua è una tragedia, e lo si è visto. Si incide su questo problema intervenendo sui paesi d'origine e soprattutto non divulgando dei messaggi demagogici. Ecco, ma lì sui paesi d'origine, Borghezio, lei che farebbe nei paesi d'origine esattamente? A parte l'osservatorio dell'Unione Europea? Le dico una cosa, per esempio, tutti i milioni che l'Unione Europea spende per fare propaganda perché dobbiamo sentirci europei, no? Milioni e milioni di film, programmi, incontri, buttati via, no? Per gli amici di famiglia. Se li spendesse per questi paesi, per creare delle agenzie, l'Europa in questi paesi deve esserci, deve far sentire, primo, istruire le persone che non sono certamente colte, perché sappiano come si può arrivare in Europa e attraverso quali canali legali, perché in Europa, anche in Italia, si può arrivare da persone civili, da persone assistiti. No, sì, noto delle aperture, Borghezio, in lei però. Senta, le leggo brevemente che cosa ha detto Maroni questa sera, se non sbaglio. Sì, ha detto: lasciatemi rivolgere, il presidente della Lombardia, visto che siamo anche su una nave, perché sull'Amerigo Vespucci della Marina Militare sta facendo un accordo con la regione Liguria, lasciatemi rivolgere, visto che siamo anche su una nave, sul Mare Nostrum, un pensiero commosso alla tragedia che ha colpito tante persone innocenti a Lampedusa oggi. Anche lei ha avuto un pensiero commosso oggi? Da quando io sono, come si suol dire, diciamo comunemente, un fan scatenato dell'attuale pontefice. No, non era il pontefice, sembra una cosa da pontefice, ma l'ha detta Maroni, però l'ha detta Roberto Maroni. Sì, no, ma io penso che Maroni, guardi, si sta avvicinando al Papa nelle sue, sì, in maniera molto, molto chiara e convincente il vero pensiero della Lega sull'immigrazione, e io mi identifico totalmente per quanto riguarda il problema dell'immigrazione con le posizioni dell'onorevole Maroni. Quindi anche lei sente che è stata una tragedia questa, Borghezio? Un approccio razionale, Borghezio, ma per questi morti, sì, a parte la razionalità, si è sentito, sì, toccato? Naturalmente, beh, questo, diciamo, la compartecipazione umana e anche religiosa, siamo cristiani, quindi nei confronti di queste persone, anche se in maggioranza non sono nostri correligionari, direi è doverosa, se siamo delle persone civili, noi siamo delle persone civili. Questo però contrasta con la falsità e l'ipocrisia del Vangelo. Le fruscate Gesù le ha date agli ipocriti, non le ha date ai razzisti, le ha date agli ipocriti. Senta, l'ONU sono la peggiore razzaccia che c'è nel mondo, perché predicano bene, adesso spargono lacrime il coccodrillo, ma questi signori che siedono su poltrone importanti, la signora Boldrini e la signora Chienge, che cosa hanno fatto di concreto per obbligare? È da pochino che sono lì, comunque, cosa sono 5 mesi? Questa vergogna degli sbarchi. 5 mesi, Borghezio, sono comunque 5 mesi che sono lì. Borghezio, non ho capito. Sono 5 mesi che sono lì questo governo. Prima c'è stato 5 mesi, si possono fare tante cose. Io sono stato 6 mesi sottosegretario alla giustizia, e in 6 mesi avevo la competenza sulle carceri del nord, le ho girate tutte. Senta, l'ONU ha appena detto, la tragedia di Lampedusa è la conseguenza di una politica repressiva nei confronti dell'immigrazione clandestina. L'ONU poco fa ha detto. Sì, beh, sa, l'ONU, sappiamo, guardi, se l'ONU si occupasse seriamente della Siria e intervenisse, ecco, per esempio, sulla situazione dei paesi, della povera gente dell'Africa subsahariana da cui arrivano questi disgraziati, a parte i poveretti che scappano dalla Siria, sarebbe molto meglio, perché anche lì, sa, nessun riferimento puramente casuale alla signora Boldrini. Questi funzionari dell'ONU che vivono nelle alberghe 5 stelle e che gravano per il 70% sui bilanci della FAO, eccetera, eccetera, a me fanno un po' ridere. Ecco, l'ultima cosa, ecco, visto che ha citato la Boldrini, sì. Boldrini ha detto che domani sarà a Lampedusa per portare la solidarietà del governo, eccetera, e dice: voglio sperare che la commozione di queste ore ci aiuti a ricordare che le vittime sono persone costrette a fuggire dai loro paesi in cerca di pace e sicurezza, donne, uomini e bambini che non hanno avuto, come noi abbiamo, il privilegio di poter rimanere in casa propria. E quindi si augura, dice, auspico inoltre che quanto accaduto induca a riflettere su misure concrete da mettere in campo affinché simili tragedie non si ripetano. Bellissime parole, se fossero pronunciate in una parrocchia ai bambini e agli scout. Un presidente della Camera deve fare delle cose concrete, è lì per guidare una politica parlamentare, per esempio una bella mozione che imponga all'Unione Europea di assumere delle posizioni più serie di quelle che ha assunto la signora Malmström anche a cadaveri caldi. Borghezio, noi sabato. Dica velocemente Milano, che devo chiudere, no, Borghezio. Mi faccia dire questa cosa che credo sia interessante anche giornalistica. Noi sabato a Milano, noi Lega, noi tra virgolette razzisti, sa con chi collochiamo sabato a Milano? Con i rappresentanti diplomatici dei paesi dell'Africa subsahariana, sullo Ius Soli. Perché noi, e questa iniziativa è stata vista con interesse persino dal Borghezio, non la riconosco più, lei è estremamente compassionevole e ragionevole questa sera. Noi vogliamo capire che cosa serva questa riforma dell'Unione. Bene. Se servisse e se fosse, voglio dire, se ci convincono, noi siamo pro. Ma quello che noi, su cui noi non accetteremo mai compromessi, è sulla demagogia, sulla pelle della gente, specialmente su quella di colore. Però perché siete questa demagogia, scusi l'espressione, ci fa schifo. Però siete disponibili, mi ha detto, a valutare lo Ius Soli. Questa è una notizia senz'altro detta da Mario Borghezio, che ringrazio e saluto. Giusto, Borghezio l'ha detta questa cosa, che potete valutare lo Ius Soli. Che verificare se per gli africani lo Ius Soli è un problema. Io penso che non lo sia. Benissimo, grazie Mario Borghezio, grazie eurodeputato della Lega. Arrivederci. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. I titoli dunque dei fatti più importanti mentre prosegue Effetto Notte. Sapete di questa grande, enorme tragedia di oggi, la seconda della settimana, con centinaia di migranti che sono morti in questo naufragio vicino a Lampedusa, e domani ci sarà il lutto nazionale. Un'immigrazione, una tragedia dell'immigrazione che ha fatto scoppiare inevitabilmente la polemica politica, con la Lega in testa che ha subito accusato la Presidente Boldrini e la Ministra Kyenge, dicendo appunto la causa sono loro. La politica per il momento si ferma e così anche la nascita di un nuovo gruppo alternativo al PDL, mentre il governo Letta cerca di andare avanti sulla strada delle riforme economiche. Per quanto riguarda Telecom, il presidente Bernabé si è dimesso. E adesso vi vorrei presentare il prossimo ospite, che è Luigi Manconi. Luigi Manconi, senatore PD, presidente della Commissione per la tutela e la promozione dei diritti umani. Abbiamo purtroppo poco tempo, Manconi, mi perdoni, perché poi alla fine quando ci si appassiona le cose si va avanti, non ci si accorge del tempo che passa. Buonasera Manconi, grazie di essere qui. Quanto ha detto Borghezio, che tutto sommato rispetto alle sue dichiarazioni del solito, insomma, mi ha un po' sorpresa. Ma quando si dice l'Europa non fa abbastanza, le proposte di Manconi, di Borghezio erano questo osservatorio a Lampedusa. No, ma francamente adesso che lei mi chieda di discutere le proposte di Borghezio. No, mi dica quali possono essere. La cosa migliore, dal momento che Borghezio e il suo partito per 20 anni hanno diffuso odio e paura, dunque se oggi discorrendo con lei. No, non voglio proporle, non voglio chiedere diversa, le proposte. La cosa davvero mi lascia del tutto indifferente. Va bene, mi dica Manconi, secondo lei una cosa che l'Unione Europea dovrebbe fare? Guardi, è molto semplice, deve fino in fondo assumere complessivamente come Unione Europea la questione dell'immigrazione. Oggi il peso economico, sociale dell'immigrazione che giunge sulle nostre coste è in misura rilevantissima scaricata completamente sul nostro paese. Questo è ovviamente fatale a causa della posizione geografica dell'Italia, ma è politicamente irresponsabile. Cosa pensa del corridoio umanitario che qualcuno oggi ha proposto invece? Ma, guardi, io penso molto semplicemente che questi viaggi non sono bloccabili, che lo squilibrio demografico tra nord e sud del mondo, la disparità economica tra i paesi sviluppati e quelli non sviluppati porta necessariamente a un incremento dei flussi migratori. Dobbiamo affrontarli con serietà. È vero, tutti dobbiamo fare la nostra parte, però voglio ricordare, perché mai viene detto, che l'Italia da questo punto di vista è certamente generosissima nell'atteggiamento di un'isola addirittura eroica come Lampedusa, nel lavoro dei volontari, dei soccorritori, guardia costiera. Stiamo però chiudendo, complessivamente, Manconi. Sì. Quello che a livello istituzionale si fa è assai poco. Ricordo che in Italia... In due parole, Manconi. Come? In due parole, mi perdoni perché mi sta mettendo la sigla. No, vabbè, non importa, allora in due parole non c'è nulla da dire. Vi ringrazio, buonasera. Mi dispiace, così succede d'altronde quando ci sono tante cose che si accavallano. Ringrazio Luigi Manconi, ci sarà naturalmente un'altra occasione per risentirlo su questo argomento, purtroppo, perché non si esaurisce qui. A tra poco.